con Agostino Ferrente, regista del film Selfie, al cinema da giovedì 30 maggio 2019. Agostino, ben trovato. Grazie, è sempre un piacere parlare con voi, mi portate fortuna. Ce lo descrivi raccontando brevemente la storia? Dunque, la storia prende spunto da un fatto di cronaca molto triste. Un ragazzo di 16 anni che viene ammazzato da un carabiniere dopo che la macchina ha peronato il motorino. Questo ragazzo andava col motorino senza casco, erano in tre sul motorino, lui era al centro, non guidava, era il più piccolo, c'era 16 anni. Si chiama Davide Bifolco, si chiamava Davide Bifolco e il carabiniere l'aveva scambiato per un latitante. La macchina ha urtato il motorino facendolo cadere per terra, il ragazzo era rimasto per terra ferito a un ginocchio, ha provato ad alzarsi e gli è arrivato questo colpo alla schiena che ha posto fine alla sua vita. Questo ragazzo non aveva nessun precedente, se non, come dire, queste erano delle infrazioni, non erano dei reati. Tritacarne del pregiudizio sociale ha sentenziato che vabbè, uno di meno. Nel senso che si è subito pensato si trattasse di un delinquente, di un latitante. E questa cosa che io avevo appreso leggendo uno scritto di Massimiliano Virgilio e Maurizio Braucci pubblicato su un libretto intitolato Una città dove ammazzano i ragazzini, edito da Edizioni dell'Asino, mi aveva colpito. Perché, come dire, piova sul bagnato, cioè oltre alla tragedia, oltre al danno, la beffa, nel senso che, come dice la famiglia, questo ragazzo era stato ucciso due volte, uno materialmente, uno la seconda volta, quando subito, a pochi minuti dalla diffusione della notizia sulla tragedia, tutti avevano sentenziato che appunto si trattava uno di meno, comunque era un criminale, eccetera, eccetera. Perché? Perché veniva da un rione Traiano, che è della periferia storica di Napoli, dove c'è, insomma, anche come in tutta Napoli, c'è un quartiere vivace con dei precedenti penali abbastanza diffusi. Questo è un ragazzo che non aveva fatto niente e questo pregiudizio con cui si era subito così bollata la vita di questo ragazzo mi ha creato indignazione. Tra l'altro ricordo che quando ci furono dei collegamenti radio, televisivi con la famiglia, qualcuno della Lega Nord in diretta col cadavere ancora caldo disse al pandice dell'ironia, oppure la Radio 24 Cruciani, la Zanzara, non mi ricordo, tipo, ma lei si chiama Bifolco, perché il cognome è Bifolco, nel cognome c'è già il suo destino, insomma, e uno della Lega disse, vabbè, ma suo figlio o era un teppista, lo sarebbe diventato, quindi ha meritato di morire. Intanto, ripeto, questo ragazzo non aveva nessun precedente con la giustizia, ma anche se l'avesse avuto a 16 anni. Insomma, spero ancora per molto, anche se inizio ad avere paura che non sia così, abbiamo delle leggi che garantiscono alle persone di avere un processo per dimostrare la propria innocenza, non è che lo puoi giustiziare così, col tiro al bersaglio. Questo era un po' l'episodio che mi ha colpito. Io sono sceso a Napoli, sono andato nel rione Traiano, ho parlato col papà di Davide, ho detto guarda, mi piacerebbe realizzare un documentario su questa vicenda, ma non è nelle mie corde l'inchiesta. Il giornalismo, diciamo, investigativo di costruire l'accaduto, non faccio questo tipo di cinema, vorrei raccontare il contesto per capire da dove è nata questa tragedia e mi piacerebbe farlo fare a dei ragazzi che hanno la stessa età di quando Davide è stato ucciso, ovvero 16 anni. Ho individuato questi due ragazzi, ho dato loro il cellulare perché ho pensato che fosse un po' lo strumento più facile per agevolare un percorso di autonarrazione, però non è che gli ho dato alcuna delega di regia, io sono stato sempre con loro erano attori principali che interpretavano se stessi e cameraman, si autofilmavano. Sostanzialmente ho abolito il filtro della telecamera e dell'operatore per avere l'impressione di essere ancora più dentro la storia e siccome loro mentre agiscono, parlano, si muovono, vivono, si inquadrano nel display, è come se si guardassero nello specchio, di lato, vedono se stessi la loro vita alle loro spalle e noi siamo la soggettiva dello specchio, cioè nel senso che lo schermo cinematografico fa sì che noi spettatori vediamo come se fossimo dall'altra parte, vediamo la loro vita. E questo era un esperimento perché pensavo che tanto ormai Napoli è stata tanto raccontata, anch'io nel mio piccolo ho contribuito a questi racconti e quindi c'è un po' un immaginario collettivo che già conosce, no? La nuova cartolina, i palazzoni, poi insomma c'è tutto il filone di Gomorra che racconta quello che a Napoli c'è, la violenza, però sappiamo che insomma il mondo spettacolo ha delle regole, la narrazione televisiva, cinematografica punta molto sulla violenza, se non ci fosse la violenza buona parte del cinema, del teatro, della letteratura non esisterebbe. Noi abbiamo bisogno di violenza perché è una catarsi, vedere la violenza sullo schermo ci fa sfogare per conto persi, diciamo, no? Però cioè questo per dire che non è che non esiste la violenza a Napoli, la criminalità, però Napoli non è solo, ho pensato che sarebbe stato bello, cioè dal punto di vista di questi ragazzi, il punto di vista di questi ragazzi per me non significa solo un'espressione metaforica, ma un'espressione materiale, cioè tutto il film dall'inizio alla fine è vissuto inquadrando gli occhi di questi ragazzi che guardano in macchina, cioè guardano nel display del cellulare e quindi fissano noi, pubblico, come se esistessero guardando allo specchio. In questo modo è come se loro raccontassero il loro passato, la vita dalla quale provengono, il contesto familiare, sociale, ma non vedono quello che c'è davanti, perché quella è un'incognita. E questo tipo di metafora si è addirittura materializzata subito dopo, perché vicino a Rione c'è la tomba di Giacomo Leopardi. Molti del Rione, molti ragazzi non sapevano chi fosse Giacomo Leopardi, pur abitando vicino a Viale Leopardi, qualcuno pensa fosse un generale, qualcun altro un medico, e quindi uno dei protagonisti che aveva abbandonato la scuola a 14 anni proprio perché non aveva imparato la poesia di Leopardi, l'infinito a memoria, tra l'altro credo che in questi giorni stia ricorrendo il bicentenario, si sta celebrando il bicentenario di questo capolavoro eterno della poesia. Lui che aveva abbandonato la scuola come tanti suoi coetanei, ricordo che a Napoli l'abbandono scolastico è il tasso altissimo, tra i più alti d'Europa, lui così si è preso una rivincita non imparando la poesia a memoria, che è troppo impegnativo, ma spiegandola, e nella spiegazione dell'infinito lui, questo ragazzo Alessandro, in qualche modo restituisce una metafora del proprio quartiere, cioè mentre il poeta non riusciva a vedere al di là della siepe, la sua era diciamo una solitudine esistenziale, filosofica, lui allo stesso modo vede che c'è un muro davanti ai suoi occhi e non sa quello che c'è oltre questo muro, se lo immagina, e se non lo vede lui spera che un giorno lo vedano i suoi figli. E credo che questa sia un po' la chiave di lettura non solo di quello che succede a Rione Traiano, ma di quello che succede nei quartieri popolari in generale, nelle periferie, e neanche solo del sud Italia o di Napoli, ma di tutto il mondo, dei ghetti del mondo. Questo è il classismo, cioè se i ragazzi non hanno la possibilità di studiare o le prime difficoltà, non hanno un aiuto da qualcuno, i genitori dei poveri cristi che non hanno strumenti culturali non li possono seguire, non hanno i soldi per pagare le ripetizioni private, questi ragazzi che fanno? Abbandonano la scuola, e un ragazzo che abbandona la scuola e non trova un lavoro come apprendista, che fa? Diciamo che non c'è da meravigliarsi se poi prende altre strade. Ecco, allora, per concludere, quando succedono le tragedie, i giornali chiedono subito l'intervento del sociologo, del politico, dello scrittore, dello psicologo e dell'intellettuale, ma quasi mai chiedono il parere di questi ragazzi che sono la parte lesa, che sono quelli a cui è successo o potrebbe succedere quello che è successo a Davide. È successo a Davide, poteva succedere a loro. E allora ho pensato di dare nel mio piccolo, di dare la parola a loro. E questo è poi in questi quartieri, in queste periferie, quando la presenza dello Stato, delle istituzioni è rappresentata solo dalle camionette blindate, delle forze dell'ordine, vuol dire che già si arriva quando è tardi, cioè si chiude la stalla quando i poi sono fuggiti, come si suol dire. Forse bisognerebbe lavorare di prevenzione, ecco. Questo un po' è lo spunto. Poi è chiaro che il film ha anche un, cioè, come dire, al di là delle riflessioni sociologiche, dei giudizi, delle teorie, insomma, aspira ad essere un'opera filmica, un'opera d'arte, quindi lasciamo che ogni spettatore ne tragga le proprie conclusioni e si emozioni come meglio crede. Comunque è un film in cui si ride, in cui ci si commuove, in cui ci si rispecchia anche. Io vengo da questi quartieri qua, quindi per me è autobiografico, ed esce, come hai detto tu, in tutta Italia in un numero spropositato di copie per un documentario, 25-26 copie a Roma in ben 4 sale: Apollo 11, Nuovo Aquila, Eden e Mignon. A Milano esce anche in 3 sale: Beltrade, l'Hotel Mexico, a Napoli al Modernissimo, a Bologna al Lumière. Insomma, devo dire che c'è una bella richiesta, forse perché dopo Berlino si è parlato molto di questo film. Dove si può vedere in rete per tutte le sale? C'è una pagina che stanno aggiornando in tempo reale, che continuano ad arrivare richieste di programmazione, che è selfie-film, perché ovviamente insomma, la parola selfie si presta a 10 miliardi di link, selfie trattino film, oppure con la mia Agostino Ferrente dovrei pubblicare adesso appena me la danno la lista delle sale. Però ripeto, andando in rete si trovano, è un documentario, non ha attori famosi, non ha budget di promozione alti, come io dico sempre. Una Ferrari costa centinaia di migliaia di euro, una Panda qualche migliaio di euro, un motorino scherzato qualche centinaia di euro. Paghi quello che compri, con un film paghi quel biglietto che è uguale, sia se il film è costato milioni di euro e c'ha altrettanto investito nella promozione, sia se è un documentario quasi autoprodotto. Quindi insomma chiediamo ai nostri spettatori di sostenerci, di vedere il film, se gli è piaciuto di consigliarlo agli amici, se non gli è piaciuto di consigliarlo ai nemici, così comunque qualcuno lo va a vedere. Vabbè, la vostra radio è sempre il conduttore di questa trasmissione, Federico è sempre un alleato e ti siamo grati.